Benvenuti nel nuovo anno, benvenuti nel nuovo corso e appuntamento, definiamo la nuova stagione, anche se la vera e propria stagione parte dopo le vacanze, quelle estive, quelle del mese di agosto, però siamo nel 2008, siamo al primo appuntamento live ufficiale di Hard & Heavy, offerto come sempre da Mariposa Dischi, corso Lodi al numero 1 qua a Milano, la voce con voi è quella di Marco Gravelli, come sempre andiamo a ringraziare e salutare il nostro autore Simone che ha preparato tutta la puntata di quest'oggi, suddivisa come sempre nella prima parte con diversi riallacci al passato, dal mondo dell'hard rock e del mondo dell'heavy metal, e poi tante novità che sono giunte anche in questo periodo. E partiamo con una delle più importanti progressive band del mondo, band canadese, terzetto dei Rush, nati nel 1968 come trio, con Geddy Lee alla voce e basso, successivamente anche tastiera, Alex Lifeson alle chitarre e John Rutsey alla batteria. L'esordio arriva nel 74 con l'omonimo album, al quale segue il cambio di batterista con l'ingresso di Neil Peart, che si rivelerà prezioso anche in fase di composizione dei brani. I lavori successivi cominciano a dare alla band notorietà anche negli States e dopo l'album 2012 del 76 pubblicano nello stesso anno il loro primo album dal vivo, che vi abbiamo presentato nell'appuntamento del venerdì, cioè Old World Stage, questo è il titolo dell'album. Questo live segna come la chiusura di un ciclo della band che abbandonerà un certo tipo di hard rock a favore di un sound più progressivo e con più tastiere. Nel corso degli anni la formazione sperimenterà nuove soluzioni pubblicando sempre grandi album che li hanno resi noti in tutto il mondo, ispirando numerose band. L'ultimo lavoro in studio si intitola Snakes and Arrows, uscito lo scorso mese di maggio nel 2007. Ora andiamo a proporre dal bellissimo Moving Pictures questo loro lavoro, che è stato poi naturalmente, come tutta la produzione, ristampata anche in CD. Andiamo ad ascoltare uno dei classici brani firmato da Geddy Lee e Neil Peart, si intitola YYZ, sono i Rush. da uno degli album più importanti della formazione, dove, tanto per citare, abbiamo presenti brani quali Red Barchetta, Tom Sawyer, Lamb Light, tutte canzoni famosissime, e anche questa sera abbiamo scelto un brano interamente strumentale, ancora una volta per sottolineare la bravura di questi musicisti. Rush, da Moving Pictures, era YYZ, il motivo con il quale abbiamo aperto il nostro primo appuntamento ufficiale di questa nuova stagione, di questa nuova annata più che altro. Hard and Devil con voi ogni sera, lo ricordo magari per i nuovi amici, per tutti gli amanti del mondo hard rock e heavy metal e tutte le sottodiramazioni e sottoetichette musicali, in onda dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21. Dai Rush andiamo ad una band heavy metal inglese, Battle Axe il loro nome, due album pubblicati, nati nel 1980, siamo quindi nella New Wave of British Heavy Metal, registrano così un singolo che ottiene buone recensioni e ottengono un contratto con la Music for Nation. Album d'esordio dal titolo Burn This Town arriva nell'83. L'album gli permise di andare dal vivo in supporter a band quali Saxon Girls School, Twisted Sister. Segue poi nell'84 il secondo lavoro, Power of the Universe, con un nuovo batterista. Seguono però purtroppo continui cambi di line-up, ma nonostante ciò scrivono materiale per il terzo album che non riescono a pubblicare perché non trovano un'etichetta. Così la band si sciolse. Ad ogni modo nel 2005 è stato pubblicato un EP con tracce registrate del 1987. Dal loro primo album, quello intitolato Burn This Town, il brano che apre il lavoro si intitola Ready to Deliver, Battle Axe. Questa è la band chiamata Battle Axe, per chi non li conoscesse, abbiamo detto appunto due album pubblicati dal primo Burn This Town, questa era Ready to Deliver. Andiamo invece a qualcosa di molto più recente, ben noti, hanno suonato nel mese di novembre per due date qui in Italia con i cugini Halloween ed Exy, sto parlando dei tedeschi Gamma Ray, uscito lo scorso novembre. il loro nono album in studio, intitolato Land of the Free 2. Album che ha fatto discutere un po' per l'eccessiva influenza degli Iron Maiden, a tratti possiamo dire addirittura plagiati. Il capolavoro della band è il quarto album, Land of the Free, del 1995. A 12 anni di distanza è uscito questo Land of the Free 2, che ci è stato presentato dallo stesso Kay Hansen in un'intervista che abbiamo proposto nel mese di dicembre. A dispetto del titolo, non si tratta del seguito del concept Land of the Free, ma ha un tema comune nella parola libertà. Andiamo a proporre la traccia numero 8, si intitola When the World, sono i Gamma Ray. Stumble through the fields, they're calling for the prince. tratto da questo nuovo lavoro Land of the Free 2 per la formazione dei Gamma Ray. Abbiamo riproposto le note di When the World. Ritorniamo nel passato con una formazione storica con grossissimi nomi. Parliamo dei Trapeze, band inglese creata nel 69 dal cantante John Jones e dal chitarrista tastierista Terry Rowley, entrambi provenienti dai Montanas. Per completare la formazione arriva il batterista Dave Holland, che poi andò nei Judas Priest, il chitarrista Mel Galley, che poi ha militato in tantissime altre band, e il bassista Glenn Hughes, che entrerà tra gli altri nei Deep Purple. Ed è grazie ad un'apparizione televisiva che colgono l'interesse dell'etichetta Threshold Records, che pubblicherà nel 1970 l'omonimo album di debutto, che ebbe un buon successo. Successo confermato anche con il secondo album Medusa, sempre nel 70, che vedeva la band diventare un trio, dato che i due membri fondatori erano tornati nei Montanas. In questo album Glenn Hughes, oltre che cantare, cioè oltre che suonare il basso, il suo strumento, canta e poi avrà anche una grande carriera proprio come vocalist. Dopo il terzo album You Are The Music, We Are Just The Band ed un tour nel 73, Glenn Hughes lascia la band per entrare nei Deep Purple. Pertanto il ruolo di cantante nei Trapeze viene preso da Mel Galley. Segue una raccolta ed un quarto album nel 74, ma c'è da segnalare che nel 76 è uscito un secondo omonimo album. Diversi sono stati i cambi di musicisti, da notare che l'unico a rimanere sempre in lineup è stato il cantante chitarrista Mel, dato che il batterista Dave è entrato poi nei Judas nel 79 per rimanerci per ben 10 anni. Hughes di rado è rientrato in formazione per alcune date dal vivo nel 1991 e nel 94. Dall'album You Are The Music, We Are Just The Band, con la voce Glenn Hughes, quando erano appunto in tre, abbiamo i Trapeze con Way Back to the Bone. Yeah. Abbiamo ritrovato quindi anche la formazione dei Trapeze. Siamo quasi addirittura ad arrivo della prima parte di questo nostro spazio di Hard and Heavy. Andiamo invece a proporre un'altra formazione della New Wave British Heavy Metal inglese. Hanno pubblicato due album ed è tuttora attiva la band. Il gruppo arriva appunto dall'Inghilterra, dal nord dell'Inghilterra, nascono nel 1990, si chiamano Beach Scene e dopo due demo arrivano all'album d'esordio con il lavoro Predator, uscito nel 1982. Segue una rivoluzione di line-up dove gli unici membri rimasti sono i due chitarristi Toomey, che sono anche fratelli. Nel 1986 pubblicano il loro secondo album dal titolo Invaders. Successivamente la band si scioglie e i due fratelli Toomey creano nel 1988 una band parallela, i Flashpoint. Nel 2004 è uscito anche una raccolta dei loro demo e nel frattempo i Beach Scene si sono riformati. Hanno pubblicato lo scorso anno un EP e a settembre hanno registrato un nuovo album, la cui uscita prevista è addirittura per questo mese di gennaio del 2008. Dal loro primo lavoro Predator andiamo ad ascoltare il brano Runaway, sono i Beach Scene. We'll be right back. Sweet Line Into the Fire. Si inizia la seconda parte del nostro appuntamento di Hard and Heavy con questa voce femminile, è quella di Lana Lane. A poco più di un anno e mezzo dal precedente Lady Macbeth, è uscito proprio a inizio del mese di dicembre questo nuovo album per la regina del symphonic rock, cioè Lana Lane, celebre cantante americana nata a Concord in California. Per la sua carriera è stato importante l'incontro avvenuto a Los Angeles con il tastierista produttore Eric Norlander, che in seguito è diventato anche suo marito. E il suo produttore è colui che suona le tastiere nei suoi album. Il primo lavoro uscì nel 1995 e si intitolava Love is an Illusion. Da lì una grande carriera sia in Europa che in Giappone. Questo nuovo album si intitola Red Planet Boulevard, è stato registrato in Olanda e in California e presenta 12 tracce, tra cui la prima, questa Into the Fire che vi abbiamo proposto. Passiamo invece ad una nuova band. Uscita tramite Frontiers Record, etichetta italiana di Napoli, è l'album d'esordio per questa giovane band svedese, età compresa tra i 20 e i 25 anni, il cui sound è descritto come un incrocio tra i Journey e gli Evergrey. Il gruppo nasce nel 2000 col nome di Demon Slave, in principio suonano un classico power metal. È solo nel 2005, con l'ingresso di una cantante, cambiano il moniker in Atlantica. Seguono altri cambi di vocalist e una line-up stabile la si ha nel 2006 con la scelta del nome attuale, Seven Tears. Registrano un demo che gli vale un contratto con la Frontiers e che ne ha pubblicato da pochissimo questo nuovo album d'esordio, In Every Frozen Tears, dal quale noi andiamo a proporre le note di Faded Memory. Yeah. intitola Fade in Memory, il brano da In Every Frozen Tears, il CD d'esordio quindi per questa band giovane che proviene dalla Svezia, il nome è Seven Tears. Uscirà invece la prossima settimana, noi ve lo proponiamo in anteprima, un estratto dal secondo album per questa band americana che aveva ben impressionato con il primo lavoro. Si chiamano Benedictum, gruppo composto da 5 elementi fronteggiato dalla carismatica e anche avvenente bella cantante Veronica Freeman. La band nasce proprio dal volere della cantante col chitarrista Pete Wells, che provengono dai Malady, ed inizialmente il nome era Bound. Dopo diversi concerti catturano l'attenzione del chitarrista di Ronnie James Dio, cioè Craig Goldie, che li ha subito raccomandati a Jeff Pilson, ex Dokken, il quale entusiasta gli produsse un demo di 3 brani che gli valse un contratto con l'etichetta spagnola Locomotive Records, che ne pubblica così il loro album d'esordio Uncreation nel gennaio dello scorso anno. Sempre la Locomotive Records, con distribuzione in Italia tramite la Frontiers, pubblicherà la prossima settimana questo nuovo Season of Tragedy. 10 brani più un intro, compresa anche una cover di Balls to the Walls degli Accept. Oltre all'edizione, diciamo, limitata, che verrà stampata, che prevede anche un'altra storica cover dei Rainbow, cioè il brano Catch the Rainbow. Rispetto al precedente lavoro hanno sostituito il batterista e come special guest abbiamo Greg Lynch, ex Dokken, Manny Schmidt dei Gravedigger, il loro scopritore Craig Goldie e l'altrettanto valido Jeff Pilson, che abbiamo citato, gli ha praticamente trovato il contratto. Noi ve li proponiamo quindi in anteprima, ripeto, l'album esce settimana prossima, si intitola Season of Tragedy, Benedictum il nome della band, questa è Shell Shock. Yeah. potente heavy metal per i Benedictum dal loro prossimo album in anteprima questa sera in Hard and Heavy su Rock FM. Abbiamo ritrovato le note di questa Shell Shock. Non manca l'appuntamento preparato come sempre dal nostro Simone con le varie news legate al mondo dell'hard rock e del metal. Iniziamo con il Rage, la band tedesca ha registrato due video di supporto al prossimo album in studio, Carved in Stone, in uscita il 22 febbraio su Nuclear Blast. Le canzoni scelte sono Lord of the Flies e Open My Grave, che saranno i due singoli. Blaze Bailey, l'ex cantante degli Iron Maiden e Wolfsbane, dopo tre album solisti in studio ed un live, è uscito con un best of. Ci sono 15 brani, 4 dei quali sono registrati dal vivo. In uscita anche per la Rhino Records, un best of dei Dream Theater. Si parla del 18 di marzo come data, si intitolerà Greatest Hits and 19 Other Pretty Songs. Manila Road, la storica epic metal band greca, ha stipulato un contratto con l'etichetta italiana My Graveyard Production per la pubblicazione del prossimo nuovo album Voyager, che dovrebbe uscire per quest'annata. Gli Epica, la gothic metal band olandese, suonerà un concerto insieme ad un'orchestra con tanto di cori. Sarà un'unica data, poiché verranno suonati pezzi di musica classica di Mozart, Verdi, Vivaldi ed altri ancora. La data sarà sabato 14 giugno in Ungheria, quindi se andate in vacanza da quelle parti nel mese di giugno, sappiatelo, presso il locale che si chiama locale, un teatro, che è il Miskolc Ice Hall. E parliamo invece di questo gruppo nuovo, si chiamano Saint Demon, usciranno il 25 gennaio su Frontiers, album d'esordio per questa band di quattro elementi che arriva dalla Svezia con l'ex batterista dei Dionysus e l'ex bassista dei Dionysus. Come cantante vi è Jan Thorn, che molto bene si era comportato negli Highland Glory. Completata la line-up, ingaggiano il produttore Jens Berggren, che ha già lavorato con Hammerfall, Symphony X ed Opeth. Per quanto riguarda il leader, il fondatore Ronnie è anche un buon compositore, tanto che ha collaborato ad un paio di tracce della recente produzione dell'album dei Primal Fear, oltre ad aver partecipato alla composizione del singolo Glorious per i passati mondiali di calcio, che ha raggiunto la posizione numero 7 in Svezia. Il gruppo, abbiamo detto, si chiama Saint Demon. Il loro album d'esordio, in uscita il 25 di gennaio, si intitola In the Shadow Lost from the Brave. Il brano che vi propongo è quello omonimo che dà il titolo all'album, Saint Demon. In the dark where the a fine mese verrà pubblicato questo album d'esordio dei Saint Demon, In Shadows Lost from the Brave, questo titolo dell'album nonché del brano che abbiamo ritrovato. Andiamo in Australia, esattamente nella città di Melbourne, uscito a giugno solo per il mercato australiano il loro secondo album per questa band molto interessante. Sono in quattro, si chiamano Airborne. Il gruppo è il sound del gruppo è praticamente uguale a quello degli AC/DC dell'epoca Bon Scott. Alle spalle hanno un'autoproduzione dal titolo Ready to Rock, uscita nel 2004, pubblicato da una piccola etichetta indipendente australiana. Però questo lavoro colse l'attenzione dell'etichetta Capitol Records, con la quale stipulano un contratto di diversi album. Seguono alcune date di spalla ai Rolling Stones e ai Motley Crue. Però la Capitol, mentre loro stavano preparando questo disco, rompe il contratto e li passa alla EMI. Alla fin fine lo stesso gruppo, gruppo Capitol EMI lo stesso, pubblicano in giugno questo album dal titolo Running Wild, solo per il mercato australiano. Successivamente la Roadrunner Records li ha presi sotto contratto e li pubblicherà in tutto il mondo nel mese di marzo, quindi anche in Italia. Noi però qualcosa abbiamo già in anteprima. Tenete presente che la band ha ricevuto anche due nomination agli Awards australiani come miglior album rock e come album rivelazione dell'anno. Li ascoltiamo con questo brano, sentite voi se non sono uguali agli AC/DC. Il pezzo si intitola Too Much, Too Young, Too Fast, si chiamano Airborne. So they always win, and the others always veramente uguale agli ACDC del periodo Bon Scott, questi australiani Airborne, Too Much, Too Young, Too Fast. Attendiamo il mese di marzo per la pubblicazione del loro album. Arriviamo invece al nuovo lavoro per i californiani Avenged Sevenfold, 5 elementi. Il gruppo, creato nel 99 da Matthew Shadows, esordio nel 2001 con Sounding the Seven Trumpet, notorietà che arriva però col terzo album City of Evil, che gli ha valso un tour anche con i Metallica e a vincere anche l'MTV Award come miglior nuova band. Questo nuovo album si intitola Avenged Sevenfold e viene a chiudere il nostro appuntamento di questa sera, il primo della settimana di Hard and Heavy. Il pezzo si intitola Critic Acclaim, vi lascio con loro. Vi ringrazio ancora una volta, soprattutto il nostro Simone l'autore, il nostro sponsor Mariposa Dischi Corso Lodi numero 1 qua a Milano e voi. Vi rimando all'appuntamento di domani sera sempre su Rock FM con Marco Gravelli dalle 20 alle 21. Ciao! Blaming their own nation for who wins elections. They've never contributed a fucking thing to the country they love to criticize.